Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buongiorno, buona domenica. Ci vorrebbe un massaggio. Ci vorrebbe un massaggio. È così? No, perché ho sai, un punto della schiena che mi fa male. Sei anziano. Io ho provato a massaggiarti, a schiacciarti un po' il triggerino. Evidentemente l'hai fatto poco. Sì, dobbiamo farlo, poi ciao. Vabbè. E quindi insomma, non è che sono vecchio, è che ogni tanto uno si ha bisogno anche di un massaggino. Non lavare i panni in pubblico così. No, perché fa bene. Noi dimentichiamo, per esempio, come tu tocchi il cane, è rilevante. Per esempio, quando tu accarezzi il cane, no? Se tu fai ciao e fai tutte queste pacche, lo strofini così, lui si agita. E molti proprietari vogliono, quando il cane si tranquillizza, vogliono ulteriormente tranquillizzarlo, lo toccano in questo modo, sbagliano, perché così il cane si agita. Mentre il tocco con il cane dovrebbe essere molto più lento, cioè le persone non considerano che anche i cani possono essere quasi massaggiati quando loro li accarezzano. A proposito di questo, io ho letto una notizia di cui volevo parlare, magari proviamo a telefonare, perché è una donna italiana che fa osteopatia ai cani. Osteopatia, bellissimo. Aveva iniziato a farla con i cavalli. Poi dopo è passata ai cani, adesso non mi ricordo qual è stato il passaggio, e poi dice che spesso ogni tanto quando vanno lì i padroni con i propri cani gli fa osteopatia, sì, pure al padrone. Sì, ma io ricordo anche un agopunturista con i cani. Io almeno ho scoperto che c'è il dentista, proprio il veterinario dentista l'odontoiatra veterinario. Parleremo anche di questo. Ne parliamo nelle prossime puntate. Però a proposito di cure, c'è una mail di cui mi avevi parlato, di una nostra ascoltatrice, che si chiama Rosanna Ferri, che dice: buonasera, grazie a Dio noi abbiamo un labrador meraviglioso, Iago, di 15 anni, e cerchiamo di fare tutto il possibile per farlo stare bene. Alevica, Stein, Arnica, materassino di pula di farro per micromassaggio mentre dorme, eccetera, ma nonostante tutto ogni tanto le zampe di dietro, specialmente la sinistra dove lui spesso si appoggia, si abbassano. Abbiamo fatto anche un po' di massaggi laser. Che cosa possiamo fare ancora? Grazie e complimenti per la trasmissione. Mi ricorda un po' la mia storia con Lucky, no? Sai, il mio cane storico di cui parlo in Dritto al cuore del tuo cane. Il cane che è stato principalmente il mio maestro, siamo vissuti assieme per 16 anni, mi ha insegnato veramente un sacco di cose. Beh, Lucky, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, soffriva di artrosi, aveva difficoltà a sdraiarsi, ad alzarsi, a camminare, a fare le scale, tanto che addirittura a un certo punto ho cambiato casa, perché abitavo al primo piano, lui doveva farsi le scale e non riusciva più. E quindi ho preso una casa che avesse il giardino a primo piano, no? Cioè piano terra. E allora mi vengono in mente delle cose. Io adesso siccome non sono un esperto veterinario di cure per cani anziani, è ovvio che loro possono prendere il parere di diversi professionisti, alcuni dei quali per esempio li abbiamo già citati: l'osteopata, l'odontoiatra, l'agopunturista. Ci sono delle cure olistiche. Oggi parleremo anche di un ambulatorio, certo, olistico, no? che è sorto in Italia. Allora si può prendere quella strada, no? Con un cane che è ammalato e uno dice: cos'altro posso fare? Ma l'invito è quello anche di cogliere purtroppo in queste occasioni che ti fanno un pochino di tristezza, no? Tu vedi il tuo cane che invecchia. Sì. Questo è un segnale dell'impermanenza. E poi noi vediamo i nostri cani anche morire. Ecco. E uno dice: no, questa cosa qua è brutta e non dovrebbe esistere. In realtà i nostri cani, che fanno parte della nostra vita per 10-15 anni, a un certo punto ciclicamente invecchiano e muoiono, si ammalano, invecchiano e muoiono. Come noi. Esattamente come noi. Noi abbiamo la possibilità, grazie a loro, grazie a questo grande dono, di non rifiutare questa cosa qua. Perché l'errore più grosso, che ti fa provare anche più dolore, è quello di far finta che la morte e l'invecchiamento non esistano. E invece bisogna viverli. E invece indagare quella cosa là solleva degli interrogativi, ti aiuta a dare significato a quegli aspetti della tua vita che sono i più importanti. Tipo? Tipo quando tu ti trovi un cane che non c'è più, una delle cose che viene fuori è: Che cosa c'è dopo la morte? Che cosa significa la morte? Quanto tempo ho sprecato mentre il mio cane era in vita a fare cose che non erano cose cretine, come stare su uno smartphone a chattare su Facebook o su WhatsApp invece di dedicarmi a lui e passare un bel pomeriggio con lui, magari sulla riva di un fiume a leggere un libro. Capisci? Quindi ti insegna a vivere appieno. E poi ti insegna delle cose sul significato che può avere la morte piuttosto che no. Ma noi insieme ne abbiamo parlato con Guido Alberto Bormolini, che tra l'altro avremo oggi, sì, no? Quindi, sai, dire questa roba qua non mi piace, quindi visto che non mi piace non ne devo mai parlare, non ci aiuta e al contrario amplifica i problemi. Sì, Però non parliamone più. Ecco, capito? Cioè, in conclusione di tutto questo... No, perché... Dai, era una battuta. Siccome io sono una battutista... Sì, la battutista. Sono cretino. Cretino. Ma... Mi aiutando, ha detto la stronzata giornaliera. Ma lui l'ha detta la stronzata giornaliera. Sì, certo, io sono battutista. Te sei battutista. Ma difatti la gente mi frequenta perché faccio perché molto ridere. Perché sei battutista, certo. Tu ti sei innamorato di me perché faccio molto perché ridere. Perché sei battutista. Assolutamente. Le battute che ti faccio in quei momenti, eh? La Rosita... Che simpatica battutista! Madonna, che domenica, ragazzi, è partita. Dai, su, perché qui la Celentano mi è un po' con l'energia bassa oggi, perché è un po' malaticcia, no? No, allora, malaticcia sei tu, mi sono strozzata ieri, vedi, ieri ho fatto una roba strozzata, che non, mi sono magnata delle cose che non mi magnavo da tanto. Ecco, vabbè. Vabbè ragazzi, allora intanto volevo ricordarvi, ricordiamo sempre, scriveteci le mail perché come vedete noi vi rispondiamo, speriamo di essere stati un pochino esaustivi. Chiedimi se sono felice @radio24.it. Peter, c'è un altro conduttore con cui potrei far cambio stamattina? Non so, su Celentano, su. Eccoci. Peter, anzi facciamo dai, così. Non vorrei mica che ti dica delle parolacce in diretta. Cosa c'entra? Come hai messo l'applauso sulla richiesta di un nuovo conduttore, non so se voi siete bravo, d'accordo. Bravo Peter, vedi. Non c'era neanche arrivata la battutista. Grande Peter. Ma io sono battutista. Non c'era neanche arrivata. Non ho detto che sono sveglia. Ho detto che sono battutista. Sono due cose differenti. Ma il battutista ha sempre la battuta pronta. Comunque speriamo di essere stati esaustivi. Peter sta sperimentando. Sì, ha dei tasti. Come c'è la musica davanti, sperimentale, c'è anche la Peter, regia radiofonica sperimentale. La regia di Peter sperimentale. No, c'ha dei tasti. Lì ha detto: vabbè, schiacciamone qualcuno. Schiacciamone qualcuno. Speriamo che non venga accadrà fuori poi quello delle puzzette. Perché casomai mettile ma sotto dai qualcosa che dice Angelo. Detto ciò, facciamo una pausa. Quanto dipendiamo dalla tecnologia nel lavoro e nella vita di tutti i giorni? Sono Enrico Pagliarini e ogni settimana 2024 intervisto i protagonisti dell'innovazione tecnologica in Italia e nel mondo. Tutto quello che devi sapere su realtà virtuale, realtà aumentata e molto altro. 2024 è il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22, domenica alle 13.30 e in edizione podcast con tutte le interviste in versione integrale. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Mi raccomando, ricordiamo sempre che noi raccontiamo storie dalla prospettiva degli animali, perché dalla volte... prospettiva degli animali, facendo dei paralleli però anche in ambito umano, no? Certo. Per esempio poco fa noi ci dicevamo c'è anche per i cani l'agopuntura, l'odontoiatra, le cure olistiche. Allora a proposito di cure olistiche abbiamo qui una un vera ospite importante, esperta. È vero, sì. Verissimo. Allora abbiamo con noi Annarita Ventura. Annarita? Pronto? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ai vostri ascoltatori. Allora, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, Annarita Ventura è un veterinario comportamentalista che assieme a suo marito, veterinario anche lui, dopo 20 anni di esperienza hanno deciso di aprire un ambulatorio olistico, giusto ecco. Annarita? Sì, esatto, nel senso che sia io che mio marito siamo veterinari da tanti anni, ciascuno di noi ha seguito il proprio percorso, quindi io sono veterinario comportamentalista, mio marito è un medico chirurgo ortopedico che fa chirurgia mini-invasiva in laparoscopia, quindi ciascuno di noi ha una carriera alle spalle, però comunque abbiamo sempre avuto un occhio alle medicine energetiche, cioè ad affrontare il rapporto con l'animale in una maniera più olistica. Ma scusami Annarita, spieghiamo bene che cosa vuol dire in modo olistico? Certo, quindi olistico è un termine magari un po' difficile da capire all'inizio, ma vuol soltanto dire che prendere in carico l'animale, olos dal greco tutto, vuol dire con tutto il carico, quindi non solo fisicamente ma anche da un punto di vista mentale e spirituale, medicina chiaramente umana. Quindi vuol dire che quando ci approcciamo a un animale possiamo relazionarci con lui e curarlo, non soltanto con le medicine chimiche, che chiaramente sono importanti e quando servono vanno utilizzate, ma anche con tante altre terapie che possono essere appunto le medicine energetiche come l'omeopatia, la floriterapia, l'osteopatia, che sono appunto quelle che noi pratichiamo principalmente nel nostro centro. Quindi vuol dire conoscere, che questo vale anche per noi, che io adoro la medicina olistica, conoscere conoscere in questo caso l'animale in modo più approfondito, dalle sue abitudini, quindi che e tipo di vita. Mi ha aiutato il fatto di essere un comportamentalista, cioè io nasco comportamentalista, quindi avere una visione magari un pochino più specifica su anche la mente dell'animale, su come comunque la mente influisca sul corpo e viceversa, le malattie psicosomatiche e somatopsichiche ci sono in umana, ci sono in veterinaria, ci fa capire che non possiamo curare solo il corpo. Certo. E che spesso le alterazioni emozionali negli animali, come nelle persone, sono causa anche di patologie fisiche. Quindi vedi, prendiamoci in carico tutto l'animale nel suo insieme. Quindi holos significa tante cose, perché significa innanzitutto prendere l'animale nel suo insieme. Sì. No, cioè, perché io ho molti amici veterinari, loro mi dicono: sai, l'università tante volte si parcellizza così tanto, no? Il sistema endocrino è una cosa, i polmoni sono un'altra, il cuore è un'altra, certo, ancora, e invece poi ci si dimentica di guardare il cane nel suo insieme, compreso anche appunto le emozioni e via dicendo. Quindi questo, esatto, è un aspetto. È verissimo, e queste due cose purtroppo e per fortuna devono andare a braccetto. Cioè la medicina inumana e quella veterinaria anche si è parcellizzata in questi ultimi anni, e i veterinari sono diventati, come i medici, sempre più bravi a diagnosticare e a curare le varie patologie. Quindi è importantissimo che ci siano colleghi che si specializzano in endocrinologia, in ortopedia, in oculistica, perché così sono sempre più bravi a trattare il singolo quell'aspetto, organo. Non dimenticando però che quell'organo è dentro a un animale con la sua mente, le sue emozioni. E tra l'altro, dicevi giustamente tu, holos vuol dire ancora di più, perché noi ci occupiamo di animali familiari. Quindi un cane e un gatto, che, o comunque anche altri animali familiari, che vivono in un sistema famiglia, assorbono affrontato tutte le energie, le tensioni e le emotività, esatto, che vive in quella famiglia. Vedi. Guarda, mi viene in mente tutto interdipendente, sì, quando si dice nella psicologia della Gestalt, il tutto è maggiore della somma delle parti. Assolutamente. Quindi, sì, interagiscono tra loro. Se noi smontiamo il tutto e vengono fuori tutti i pezzi, ma poi rimetterli insieme non è la stessa cosa. Quindi va affrontato tutto nell'insieme, esattamente così. Mentre parlavate prima dei vari medici veterinari o medici per noi esseri umani, mi veniva in mente il famoso vecchio saggio medico di famiglia, che in realtà era quello bravo a farti una diagnosi e poi a mandarti dallo specialista secondo quello che avevi. E mi ricordo che passava veramente, arrivava con la valigetta a casa, perché c'ho un'età, quindi me le ricordo ancora queste cose, e veniva lì e si sedeva in salotto, iniziava a dire: beh, che cosa c'hai, ma perché sei così, ma ieri cosa è successo, hai preso un brutto voto, cioè partiva a fare domande che lì per lì potevano sembrare completamente scollegate dal fatto di doverti auscultare il petto piuttosto che guardare la gola così, e invece erano veramente dei bravi medici, perché a volte magari con una carezza, con una cosa calda già ti facevano ti rassicuravano e ti sapevano indirizzare, e però un po' manca. Però allora, prima dicevamo di holos in questo senso, però ha detto due o tre cose Anna Rita che mi hanno incuriosito. Lei ha detto anche su altri livelli, per esempio quello energetico o addirittura quello spirituale, quindi non soltanto holos perché gli organi interagiscono tra di loro, ma anche su altri livelli. Cioè, spiegaci meglio questa cosa qua. Ora, che l'essere umano, l'animale, la materia sia energia, lo diceva Einstein, non lo dico certo io. Quindi ormai la fisica quantistica è riuscita a spiegare e a dimostrare come appunto la materia sia energia consolidata. Quindi se noi siamo energia, dobbiamo imparare a curarci anche con l'energia, quindi siamo anche chimica, per cui possiamo curarci con i farmaci chimici, che ripeto sono indispensabili in certi casi, ma siamo anche energia, che è chiaramente una forma di materia più sottile, e quindi possiamo curarci anche con medicine energetiche, che quindi curano, come l'omeopatia, la floriterapia, con frequenze elettromagnetiche, non con molecole chimiche. Ma che poi, scusami, magari tu mi sai rispondere se non sto dicendo una castroneria o no, in realtà diciamo che l'inizio, il modo per cui si è iniziati a curare gli esseri umani o gli animali partiva da lì. C'è stato poi un momento dove sembrava che bastava la pillola che sistemasse tutto, no? E invece si sta un po' tornando. Tu dici delle cose bellissime. Sia il medico di famiglia, che secondo me, io chiamo veterinario di famiglia il veterinario, perché ce ne sono ancora, dice non ci sono più, ma ce ne sono ancora, ce ne sono di bravissimi, di veterinari di famiglia che hanno l'ambulatorio e che fanno il lavoro che dici tu, cioè quello appunto di conoscere molto bene il loro paziente, perché lo conoscono da quando era cucciolo, e di indirizzare lo specialista solo se serve e quando serve. Quindi questo lavoro c'è anche in veterinaria. In questo caso invece quello che stavi dicendo è verissimo, cioè la medicina è evoluta, prima si curava con la preghiera, poi si è cominciato a curare che non avevano altro, poi si è cominciato a curare con la terapia, con le erbe, poi si è cominciato a conoscere la chimica, quindi i primi farmaci, poi la chirurgia, avendo i farmaci per poter fare l'anestesia, e via, la medicina è evoluta. Quello che diciamo noi è che adesso che siamo evoluti fino a questo punto, non dimentichiamoci il passato della medicina. Esatto. Cioè, tutto insieme, quindi non si rinnega la chirurgia. Mio marito è un chirurgo, quindi la chirurgia serve, quando serve salva delle vite e bisogna saperla fare bene. La chimica è importante, la fitoterapia è importante, ma l'energia è importante. Quindi voglio dire, bisognerebbe veramente ricominciare a imparare ad ascoltarsi un po', ad ascoltarsi anche che cosa ti porta ad ammalarti, se in quel momento sei in una condizione particolare. Questo vale sia per i nostri cani animali che per noi. Devi chiedergli se sono felici e devi ascoltarli. È vero, bisogna imparare ad ascoltarsi, ognuno deve ricominciare, perché sennò uno c'ha mal di testa, la prima cosa che mi dicono è vuoi una pillola? Qualcosa. Io dico no fino a ma che perché questo sono stati decenni e decenni di medicina tradizionale in Occidente, perché in Oriente chiaramente è diverso, certo. E siamo stati abituati a medici che ci davano la soluzione pronta, sopprimono il sintomo. Sì, in omeopatia si dice sopprimono il sintomo, perché in omeopatia il sintomo è come se fosse una lampadina. L'esempio che faccio sempre è: se io sto guidando l'auto e mi si accende la spia della benzina, ho due possibilità. Posso fermarmi al distributore e fare benzina, posso svitare la lampadina. Il risultato apparentemente è lo stesso, cioè la lampadina si spegne, ma chiaramente dopo un po' di chilometri la risultato è completamente diverso. Bello questo esempio, bella mi metafora. Piace, guarda, la useremo. Senti, Annarita, ma se uno vuole venire quindi a trovarvi, no? Se uno vuole capire dov'è, come vi trova? Allora, in realtà, come sempre, noi veterinari siamo un po' presi, abbiamo 2000 cose da fare, quindi il nostro sito, il nostro posto è aperto, il nostro centro è aperto, e se posso dire l'indirizzo? Certo. È a Bologna, in via dell'Industria 31. Abbiamo scelto questo posto perché è la zona industriale di Bologna, quindi è facilmente raggiungibile anche da chi viene da fuori città, gli ambienti non di Bologna, e si raggiunge con la tangenziale molto facilmente. Abbiamo aperto una pagina Facebook che è già attiva, stiamo lavorando sul sito. Come si chiama la pagina Facebook? Si chiama Metatron Vet. Metatron Vet. Benissimo. Bene, grazie Annarita. Bravi, coraggiosi, bravissimi. Bravi a voi che continuate appunto a tutti i giorni a presentare i veterinari, ce ne sono tanti, non siamo solo noi che scelgono anche strade. Infatti. Non così percorse, non ma convenzionali. Siamo qui anche per questo. Grazie, buona domenica. Grazie, ciao Annarita. Anche a voi buona giornata. E a tutti noi ci risentiamo fra poco. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Cosa ridi? No, perché volevo farti uno scherzo e ho aperto gli occhi. Stavo un attimo riposando gli occhi. Io di fatto volevo fare uno scherzetto cinese. Ecco. Chissà perché si dice scherzo cinese, perché i cinesi fanno degli scherzi orrendi. O scherzo da prete. Ce lo spiegherà adesso Guido Alberto. È vero, Guido Alberto, allora, Mormolini. Esatto, pronto, sei in linea? Sono in linea, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, allora, a proposito di ascoltatori, io vi ricordo che Guido Alberto Mormolini è un monaco e un prete tutto particolare. Ha scritto I Santi e gli Animali, noi l'abbiamo intervistato diverse volte. Anzi, ti abbiamo conosciuto proprio per questo. Proprio per questo, perché leggendo questo libro magnifico, I Santi e gli Animali, che insomma mette, sottolinea l'importanza della relazione con gli animali e quanto sia sbagliato impoverirli, no? Di facoltà cognitive, della spiritualità che possa legarci a loro. Insomma, pian piano abbiamo conosciuto Guido Alberto e ci ha raccontato un sacco di cose meravigliose, no? Vedi, gli animali ci hanno fatto incontrare. Gli animali hanno fatto incontrare me, Angelo, ci ha fatto incontrare te, Guido Alberto. Stiamo facendo un bel lavoro. Ti tocca sposarci, Guido Alberto? Certo, sono sempre preziosi gli animali. Scusate, torniamo sul punto. Si era distratto un attimo, ti sei perso la faccia di Angelo quando hai realizzato quello che abbiamo detto. Ma parliamo di animali. Allora, no, Guido... no, aspetta, parlare di cose serie. Scusa, Guido Alberto, dicevi che ci tocca... Ecco, grazie Peter. Anche se Guido Alberto io avrei scelto un'altra musica. A me piace la canzone, sia musicale che cantata, di Fratello Sole e Sorella Luna, la storia di San Francesco e Santa Chiara, quella raccontata da Franco Zeffirelli. Ma voi non sapete che Guido Alberto è anche vegetariano. Certo, da 36 anni sono vegetariano. Sì, ma guarda che Angelo sta facendo di tutto per distogliere l'attenzione. No, io sto riportando matrimonio. L'attenzione degli ascoltatori sulle cose serie. Senti, Guido Alberto, vieni a parlare di cose serie, meno serie come quella del mio matrimonio con Angelo. No, aspetta, Vaira. Ma perché si dice scherzi da prete? Appunto. Ma chi lo sa, infatti probabilmente perché sarebbe, se scherza un prete a sproposito è peggio che possa succedere, però se scherza a proposito va bene, certo. Perché si deve essere spiritosi, se ci pensi spirituale e spiritoso è la stessa radice. È vero, è spirituale e spiritoso. Madonna, certo, qui cuor contento il ciel aiuta, gli angeli si avvicinano se la gente sorride, se c'è gioia. Io rido sempre, faccio sempre scherzi. A volte Angelo dice che esagero, però io sono sempre pronta a far scherzi. Poi c'è mio padre che dice che secondo lui Dio è il più grande comico esistente nell'universo. E beh, lui è più grande in tutto, quindi anche comico. Sì. Certo. Sì, se c'è gioia finale bisogna che ci sia gioia vera. Senti, e si può anche ridere di cose belle, non è che... I monaci dicevano, c'è proprio una differenza, no? Tra la risata isterica, diciamo, di chi magari... cerca in qualche modo di riempire dei vuoti, e invece il sorriso e il riso di chi ha trovato il senso della vita. Per cui penso che in paradiso si riderà. Madonna, capite quanto è speciale. Fantastico. Questo nostro amico prete e monaco. E allora, per farti ridere, una volta ad Adriano ho detto, visto che lui è tanto credente, gli ho detto: secondo te Dio è onnipotente? A proposito di scherzi, e lui fa: sì. E secondo te riuscirebbe a creare una pietra talmente grande, talmente pesante, che neanche lui stesso riesce a sollevarla? E lui, se diceva sì, allora vuol dire che non è onnipotente, perché dovrebbe poterlo fare. Però se lo fa, la pietra non è così, non riesce a sollevarla, quindi di nuovo non è onnipotente. Quindi sai, questo paradosso, ci siamo fatti qualche risata. Ma di fatto può essere così. Se tu ci pensi, a Nazareth Gesù non ha potuto operare miracoli, ma perché l'ha voluto lui. È talmente onnipotente che ci ha lasciati talmente liberi. Esatto. Da diventare impotente nell'aiutarci per il libero arbitrio. Esattamente. Che meraviglia. Ma si può ridere anche della morte? Sì, si bisogna. Può ridere della morte. Anzi, c'è stata proprio tutta una lunga tradizione popolare. Io dirigo una piccola collana editoriale alla libreria editrice fiorentina, che è proprio su questi temi. E il primo volume l'ha fatto Carlo Rapucci sull'ironia popolare sulla morte, perché in qualche modo la sdrammatizza. Sì, la esorcizziamo, no? Questa grande paura della morte. Abbiamo aperto poi, tra l'altro, la puntata proprio parlando di invecchiamento e morte. Rosita diceva: cambiamo argomento. No, vabbè, ma lì l'ho fatto per fare una battuta, certo, ovviamente perché ci sta. Perché sei una battutista, capito? Esatto. Allora, noi ci chiediamo. Allora, dunque, abbiamo invitato Guido Alberto anche per parlare di questo, perché tra poco comincia un master in accompagnamento spirituale alla malattia, cioè nella malattia e nel morire, giusto? Esatto, sì, l'abbiamo fondato con la nostra onlus da poco. Ecco, ma allora da dove origina questa esigenza? Perché la gente potrebbe dire, ma questi sono matti, non sono argomenti di cui parlare, perché sennò viene la tristezza. Ma guarda, non è vero, io mi ricordo proprio quando anni fa avevo fatto una conferenza da poco giunto a Firenze, l'avevo intitolata Imparare a morire. Uh-huh. E quando portavamo questo volantino in giro nei negozi, tutti toccavano ferro e dicevano non lo metto. Invece, non lo attendo neanche il volantino. La conferenza era strapiena di gente e lì ho conosciuto Tiziano Terzani, che è venuto anche lui a ascoltarla. Ma pensa, il buon vecchio Tiziano. E vedi? E quindi, la gente ha voglia di sentir parlare di morte proprio perché è una specie di tabù, nessuno ne parla e in realtà ne hanno bisogno. Se gli offri questa possibilità, vedi, il vecchio monito memento mori, no? Sì, mori era mia madre, però. Sì. Ricordati di Claudia Mori. Esatto, ricordati che devi morire, la famosa battuta del film Non ci resta che ricordati piangere contro Isi e Benigni, no? Simon me lo segno. Senti, ma quali sono le cose, la cosa, non so se uno, più, sicuramente più di una, che uno dovrebbe assolutamente sapere, per esempio, sulla morte? Ma intanto la prima cosa è che la morte non è l'opposto della vita. La natura stessa ce lo dice incessantemente. La morte è un passaggio della vita. Noi negli ultimi decenni ci siamo appiattiti su questa convinzione che è un'opposizione vita e morte. È vero, dove c'è una non c'è l'altra. Beh, ce lo diceva un filosofo, però. Beh, però questo lo diceva in un altro senso. Però in realtà la coscienza dei popoli da millenni è che vita e morte non sono in opposizione. La morte è uno dei passaggi della vita. E quali sono gli altri passaggi della vita? La vita ha tanti passaggi che richiedono sempre che muoia qualcosa di inutile e nasce qualcosa di nuovo. Quando siamo bambini, moriamo da bambini, nasciamo come adolescenti. Si muore da adolescenti, si nasce da adulti. Muore un corpo e nasce una vita nuova. Sotto forma diversa? Senza dubbio. Ma ce ne parla di questo il sole stesso, no? Che tramonta e risorge. La luna che scompare per tre notti, qui viene equiparata a Cristo, no? Che per tre notti scende e poi dopo risorge e poi ricomincia a prendere luce, il grano che muore rinasce. Vedi, e all'inizio della trasmissione dicevamo, noi proprietari di cani abbiamo una grande fortuna da un certo punto di vista, perché i nostri amici animali, che peraltro è dimostrato, ti ricordi Rosita, da quella ricerca di quella università, non mi ricordo quale università fosse, però diceva questa ricerca che si soffre di più per la perdita di animali, sì, bambini e anziani, perché hanno una connotazione di innocenza e soprattutto per quanto riguarda gli animali e i bambini hanno spesso... Ecco, soprattutto gli animali sono campioni di accettazione incondizionata e quindi riescono a stabilire dei legami così forti che poi ti fanno soffrire tanto. E allora, quando l'animale muore, ti sbatte di fronte questa realtà. Cioè questa cosa che soprattutto in Occidente non hai voluto guardare, hai voluto evitare, non ne vuoi mai parlare con gli altri, eccetera, eccetera, a un certo punto ti capita. E allora a quel punto vale la pena... Inevitabilmente, l'unica cosa certa da è quando nasce cosa è che tu muori. Non sai quanto vivrai, se ti sposerai, se... A proposito, no? Se ti sposerò, se sì. Avrai lavoro, se no, che lavoro farai piuttosto che no, da chi sarai circondato no. Però hai una certezza, alla fine morirai. E le persone che tu hai amato prima o poi se ne vanno. Allora il punto è, io credo in questo master, di formare delle figure che siano esperte nell'accompagnare le altre persone lungo il loro cammino quando incontrano dei momenti di perdita e malattia, no? È questo. Certo, esattamente, perché per molte persone può essere un dramma proprio perché è cambiata la visione. In realtà il fatto che abbiamo la certezza di morire dà un senso pieno ad ogni istante della nostra vita. Dicono che è un dono, nel mito greco, è un dono che gli dèi hanno fatto all'essere umano, se no avrebbe sprecato la vita. Perché sapere che hai un tempo ti permette di dare la preziosità assoluta di ogni attimo. Che poi è pienamente d'accordo, infatti si dice che bisognerebbe vivere come se si morisse domani e pensare, com'è che era quel detto? Io credo che tu ti riferissi quando uno dice studia come se dovessi vivere per sempre e vivi come se dovessi morire domani. No, non era così, la parola studia non ci sono tanti, no? Ci sono tanti detti che sono ispirati a questo. Pensa per un sacerdote, no? Si dice dovrebbe dire la messa come se fosse la prima, sempre, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica, cioè sempre di essere, non sappiamo se c'è un domani, quindi che l'oggi sia vissuto fino in fondo. Esatto, vivere il presente, insomma, come ci insegnano gli animali sono così. Certo. Io mi ricordo però dai racconti di Guidalberto un paio di episodi che hanno fatto, non so se si può raccontare in radio, però un paio di episodi che hanno fatto pensare loro, cioè Guidalberto fa parte di un'associazione che si chiama Tutto è Vita, è una Onlus, che è fatta da un insieme di persone esperte appunto ad accompagnare i morenti. Uh-huh. E io mi ricordo che tu hai raccontato di un paio di episodi molto particolari che, di fronte ai quali uno dice, ecco, lo vedi che allora c'è qualcosa dall'aldilà. E mi riferisco... Allora aspetta, facciamo così, facciamo una breve pausa, Guidalberto, e così lasciamo anche un po' di suspense. Quali sono queste storie? Trattenete il fiato fino al prossimo blocco. Esatto. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Siamo sempre qui, purtroppo sta per finire anche questa domenica. Siamo in compagnia di una persona che io amo profondamente, Angelo. Non essere geloso, però. Non lo sono, in questo caso non lo sono. Tutti gli altri ti spezzo le braccine. Tec tec, capito? Guidalberto, hai sentito cosa ha detto? Vabbè, vuol dire che ti vuol bene. Poi magari la braccia, no. Grazie, però. Guidalberto. Poi finalmente un alleato in questa puntata. No, però voglio dire, se lui mi volesse veramente bene, io avessi voglia di andare altrove, dovrebbe essere contento per me. Ci ricominciamo con questa cosa. Ma insomma, dobbiamo parlare di cose molto importanti per i nostri ascoltatori. E cioè, vedi? Ricordati che devi morire. Ecco, ho mischiato tutte e due le cose. Bravo, Peter. Ricordaci che cos'è il matrimonio, che è la tomba dell'amore. Vabbè, senti, Guidalberto, ancora voglio frequentare Angelo dopo queste castronerie? O... Ma è una battuta, anch'io sono Ma battutista. Sì, appunto, esatto. Sei simpatico, quindi va bene. Grazie, certo. Guidalberto. Allora, no, prima stavamo dicendo, tu hai accennato. Allora, sì, prima, della pubblicità dicevamo, a Guidalberto sono capitati un paio di episodi molto, molto particolari, che per lui è stata una conferma piuttosto evidente del fatto che c'è qualcosa, c'è una coscienza dopo quello che noi chiamiamo morte, che è una morte del corpo ma non dell'anima. E allora, insomma, volevo, se te ce le racconti ai microfoni di Radio 24, siamo felici. Certo, allora intanto c'è una cosa che ha riconosciuto abbastanza universalmente, che negli ultimi tempi prima della morte, gli ultimi giorni, molto spesso il morente vede avvicinarsi i propri cari defunti. Questa è una cosa anche studiata, è uscito qualche mese fa su Repubblica un paginone intero tratto dal giornale di medicina palliativa statunitense che portava questi casi. Quindi non è che in questi casi uno, perché sta male, sta morendo, c'ha le allucinazioni? È un'ipotesi che alcuni hanno sollevato, hanno detto sì, è riconosciuto questo fatto, può essere un'allucinazione non patologica o no. C'è una cosa interessante che alcuni studiosi hanno raccolto, e io con le testimonianze dirette ho raccolto più di un caso, sempre uno significativo. Una signora aveva la figlia in una grave depressione, purtroppo morta suicida, e la mamma terminale di tumore, per cui non ha detto alla propria madre della morte tragica della propria figlia. E la cosa che ha fatto impressione è che questa donna malata di tumore ha visto arrivare i propri genitori nei giorni precedenti alla morte, e ha visto anche la propria nipote, che non sapeva assolutamente essere morta. Infatti ha esclamato con stupore: cosa ci fai con loro? Certo. Vedi? Quindi in quel momento una persona sembra cosciente che le persone che vede in quel particolare modo sono persone che sono morte. Sì, vengono riconosciute come tali, uno dice vede i propri genitori, molti infermieri mi dicono che da lì riconoscono anche l'avvicinarsi del momento del passaggio per la persona che stanno accudendo. Invece pensa che a proposito di questo mi vengono in mente i cani di Monica, ti ricordi che lei assiste negli hospice, sì, in malattie, sì, terminali? C'è questa amica nostra che va a lavorare con i suoi 3 cani negli hospice dove ci sono proprio malattie terminali, e uno di questi 3 cani in modo particolare, quando a un certo punto si accuccia sotto il letto all'altezza del cuscino del malato, regolarmente il giorno dopo non c'è più, muore. Gli animali sanno riconoscere il momento della morte, è una testimonianza che si riporta molto spesso. Infatti la vicinanza degli animali negli hospice è una cosa importante, e gli hospice permettono, a differenza delle strutture ospedaliere, di avere l'animale caro, l'animale amico con sé negli ultimi tempi nella stanza dove sono. Perché dice molto importante? Perché comunque l'animale per molte persone è un affetto importantissimo. Infatti nel nostro master abbiamo dedicato una sezione anche al lutto per la perdita di un animale caro, e quindi a come sostenere una persona che soffre per questo lutto. Quindi non è da sottovalutare, da prendere in giro, cioè, sai, ci sono, come si dice, i diversamente intelligenti che prendono in giro le persone che hanno, che magari fanno cremare il proprio animale, piuttosto che gli fanno proprio la cerimonia funerale. Voglio dire, se uno soffre, se questo animale ti ha dato tanto, nel momento in cui non c'è più, ma per quale motivo devi minimizzare? Quella è una persona che sta male. Uno dei problemi di chi ha un così grande legame con gli animali nel momento in cui li perde è proprio il fatto di non trovare così facilmente interlocutori adatti, perché quando tu racconti che stai soffrendo così tanto per la perdita di un animale, la maggior parte delle persone tende a minimizzare, insomma, ti rendi conto che è soltanto un gatto, ti ridicolizza. Oggi per fortuna le cose sono un pochino diverse, però un invito a chi ci sta ascoltando è di selezionare per bene le persone con cui confidarsi, in modo da potersi aprire, no, con le persone giuste, per non essere sminuiti. Ma se si cresce nell'amore, l'amore è per tutti i viventi, e quindi non si può ridicolizzare una persona che ama un vivente e soffre per la perdita di un vivente. Quindi questo, secondo me, anzi, dovrebbe essere una cultura che si espande in questo senso a tutti gli altri viventi. Anche una pianta che muore, secondo me, può procurare un dolore, un dispiacere. Questo tanti soffrono per la perdita anche di una pianta. Ma certo. Basta che non sia sostitutiva, cioè quello che talvolta può succedere, magari può generare perplessità, è chi sostituisce l'amore con altre specie viventi a quello per gli umani, perché hanno avuto delle delusioni e tutto. Certamente. E invece espansione d'amore, e l'abbiamo visto in tanti santi, è dimostrazione proprio di un alto livello di spiritualità, saper amare tutti i viventi e soffrire se loro soffrono. Esatto. Molto bene. Tra l'altro questa sostituzione in zoantropologia è una deriva e ha un nome, si chiama vicarianza, cioè quando io non posso avere figli e adotto il cane trattandolo come un bambino, ecco che questa è una deriva zoantropologica, perché non sto trattando il cane come lui ha bisogno di essere trattato. Esatto. E questo non fa bene neanche a me psicologicamente, perché il cane non è un bambino. Esatto. Che meraviglia. E quindi, allora, Guidalberto, spiegaci un po' di questo master, quanto dura? Cioè, se uno vuole specializzarsi in questa cosa, deve essere laureato o non deve essere laureato? Che figura si può iscrivere? No, è aperto a tutti, abbiamo 2 livelli di formazione, per cui è per professionisti ed è accreditato ECM, cioè ha un valore legale per la formazione nelle professioni sanitarie. E poi per tutte le persone che hanno un interesse personale o che fanno volontari, e quindi è accessibile a chiunque. Ma io immagino anche quelle professioni che sono costantemente a diretto contatto con la morte, mi vengono in mente che sono gli infermieri, i medici. Certo. È rivolto, infatti c'è una sezione dedicata proprio a tutti i professionisti, infermieri, medici, psicologi, gli OS e via di seguito. E una aperta a tutti, volontari o anche chi solo per una curiosità personale vuole elaborare il tema della morte per essere preparato a affrontarla per i propri cari o per se stesso. Sì, esattamente. Strano, è uno di quegli argomenti che io devo iniziare a, con quale devo iniziare a maneggiare, a familiarizzare, a confrontarmi, sì, per esempio. No, nel senso che mi è capitato, no, quando mi è capitato che morissero delle persone o anche i miei animali, in realtà nel momento in cui loro non ci sono più, io non li voglio più vedere, mi allontano proprio, scappo, a dir la verità. Sì, eviti. Quindi devo iniziare a prendere una sorta di familiarità. Pure mi è capitato una volta una bimba di 9 anni, purtroppo aveva una brutta malattia che è morta, di vederla sul lettino, e io la fissavo e dicevo, ma va, sta dormendo, adesso si alza, si riveste, si fa, e non riuscivo ad accettare quel fatto. Ho tenuto pochi weekend fa un seminario di due giorni con un medico veterinario, Stefano Cattinelli, specializzato proprio nell'accompagnamento empatico, no, alla fine della vita nella relazione con gli animali. E sono venute fuori con queste 20 persone che hanno partecipato al seminario delle cose profondissime, grazie al fatto che il tema fosse questo qui. Guidalberto, se uno si vuole iscrivere, dove trova informazioni su questa cosa? C'è un sito www.tuttovita.it e ci sono tutte le informazioni necessarie, il calendario è un fine settimana al mese da ottobre a giugno. E il posto è bellissimo, è un antico monastero sulle colline pratesi immerso nel verde. Che meraviglia. Fantastico. Senti, grazie Guidalberto, io starei a parlare con te ore, settimane, mesi. Adesso tu oramai ti abbiamo strappato una promessa che ci vedremo a breve, magari per fare un po' di chiacchiere approfondite. Ma anche perché ci trasmette la preghiera del cuore, perché dovete sapere che Guidalberto appartiene alla tradizione dell'esicasmo ed è la famosa preghiera del cuore che troviamo nei racconti di un pellegrino russo. Insomma, andate a vedere sul sito di Guidalberto Bormolini. Salutaci le sue ride fantastiche. Sicuro. Va bene, ciao Guidalberto, a presto, un bacione, un abbraccio grande. Un abbraccio. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao Guidalberto. Allora, io volevo ricordare, quanto abbiamo Peter? 30 secondi, in 30 secondi volevo ricordarvi che c'è questo evento organizzato da Matteo Greco, Finalmente a casa, dove viene adottato un cane. Avvicina la bocca al microfono, amore. Finalmente a casa, dove viene adottato un cane, il 27 e il 28 di maggio, Foro Annonarios di Sinigallia, e ne parleremo magari anche domenica prossima in modo più approfondito. Intanto buona domenica, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it. Un abbraccio da Rosita e Angelo, la battutista.